sai che vai a bordo? Cos'è che vai? Ah, uscendo a lavorare stai. Quando? Ah, cappa, non ti affondata, no? Per carità, ragazzi. Allora come sono arrivi in me? Sì, adesso lo fate. Però sì. Che farò nel sì, vai. Anche se non hanno mai sulla rifare, però oggi ne abbiamo tutti. Sì, ecco. Allora a vedere cosa tutti di noi, amici. Tra poco. Tra poco si avranno il duto dopo. Ah, scusate, di no. Ma non dovevano aprire, che dovevano lasciare chiuso, finché che la roba non sarebbe stata più sicura. Vabbè, adesso vediamo un po' le cose sulla situazione, poi vediamo, no? Ma capo, vabbè, dai che ne muro un altro bocco, vediamo. Vabbè, dai. Se no il ristorante e le bar non funzionano. Allora, sta facendo la gente. Oh, io. Basta di cazzo, ma sono travaglio, questa niente, al buco di barro ristoratore. Oh, io via. Beh, vabbè. Ah, sì, già portato. Cavolo. Fai batti in pezzo. Beh, vabbè, sei vicino, sì, no? Sei vicino. Stai meglio degli altri tu, in campagna, ragazzi, a tutti. E cosa c'è lì? Paese c'è. Oh, aspetta, allora ce n'è gente. Quasi quasi un paese. Bello così allora. Allora già va bene. Sapo che eri campagna tua, vuoi in campagna. Avevi fatto la casa lì, invece. Allora già va bene. La cosa già me la fa fare. Il terreno è stato una casa. E me che c'aveva il terreno che ha fabbricato, diciamo che per forza ce l'hanno lasciato il terreno in giro. E se no, che gusto vea se la faccia la casa in una campagna. Prolungamento via Sassari, dopo la rotonda. Ah già, tu giri lì, a fianco alla grande giri. Ah no, c'è prima della rotonda, non dopo. Ehi, ma non mi ha capito, andando a Sassari, tu sei qui dopo la rotonda, perché lì c'è anche, ho capito che stai, dove stai dicendo, lì c'è anche cosa, c'è, Luglio d'impresa, ma non me la metto, guarda, che lavorava con me, la rotonda della Grindi, infatti basta a Siri semafori, ma lì a Siri bassi. Porca miseria che Gavino, non mi viene il cognome, no, lavora la Mondezza, cazzo, vabbè, è quasi all'entrata, esita, va bene, lo faccio internet, va, Gavino, cavolo, non me la metto proprio, cazzo. Adesso non mi viene il cognome, non mi viene. Prima lavorava in cooperativa con me, lavoravo. Lui, però lui aveva sempre il camion della Mondezza, c'aveva, che portava via la Mondezza, tuttora la porta via da dentro le Iniche a discarica. E magari lo conosci anche bene, lo conosci. Ah boh, stava lavorando. Ma sai che sta cercando altro tipo di lavoro, sta facendo altro tipo di lavoro. Cosa? La moglie. Capo, meglio così. Più bene c'è la radio. No, già va bene. Cosa è quella? Capo. Buona. Ciao, buon lavoro. Ola. Buongiorno, no, sì, ti ho sentito, però non riesco a capire chi sei. Non ti ho copiato quest'ultimo passaggio. Attenzione, Blecco. Attenzione, Roberto, avanti. Ciao, Riccardino, e ciao, Barracuda. Cosa, non ascolti la Barracuda, Riccardino? Il primo passaggio l'ho ascoltato e poi l'ho... l'ho tirato un po' fuori con le pinze. No, qua è oltre 9, sta arrivando perfettamente. Ciao Tony, ben sentito. Ma c'è un back? No, sei oltre 9, 9 con i picchi arrivano a 9,5, radio 5. Non è molto amplificata, però si sente chiara e pulita. C'è qualche volato sul 10? Ciao Antonello, scusa, comunque se non sono riuscito a capire chi eri. Ok, quanto dire con quello smitter che il segnale mi dai? Radio è pulita, per questo è un altro microfono. Ok, vai Riccardo. Ehi, una cosa a parte, rispetto a te è un po' più bassino. È Santiago 7, radio 4, più 3, alcuni passaggi. Vabbè, io sono aperto, sì, ce l'ho di fronte, a voglia. Che ci vediamo, quasi ci vediamo con Antonella, dai. E basta, ti ho tutta la zona Alghero, le faccio benissimo, Stintino, eccetera. Non c'è problema per i ti, ripeto, sono un po' sacrificato da Castelsardo con le zone libanesi, diciamo, c'è gente che arriva più forte di me. Ho capito, come ho detto, un giorno bisognerebbe fare la prova andando all'Argentina fino a che punto mi scompare allo smitter. Ehi, avete fatto per un passaggio, un pezzettino, avete parlato insieme, comunque ho capito quello che ha detto, non c'è problema. No, tu arrivi bene, poi tu sicuramente zona Alghero poi arriverai, con le zone lì tutto la bassa cosa, con la zona Alghero, non so se poi tu spari anche verso Bosa, ci riesci ad arrivare con le zone? Sì, diciamo poi ci sono le zone magari dove arrivi un po' meglio, eccetera. Ok, facciamo un'altra chiamata sul 10 se c'è qualcuno che vuole entrare, avanti sul canale 10, nulla, Riccardino avanti a te. E io vado avanti io oggi sono venuto tardi, pensavo di trovare un sacco di gente, invece c'era solo 2 barracuda. E vabbè, poi magari gli altri entreranno più tardi, vabbè, sono già mezzogiorno qua, magari vanno a mangiare e stasera ci sarà qualcuno. E non sei uscito oggi, Riccardi, col campo? No, era un tempo un po' strano, per sicurezza non sono uscito perché bisognava anche far girare la piscina, sennò poi diventava di nuovo verde. Ok, dimmi una cosa Antone, che microfono utilizzi a parte questo normale? No, Saturn Echo è un buon apparato, è molto grande, diciamo, qui dentro è Biodo, non c'è niente, però come apparato abbastanza completo. Non dico che sia eccezionale in ricezione, ma in trasmissione c'è una bella modulazione, se abbini un bel microfono, col più 4 c'è modo di farlo sentire. E a che livello sei i microfoni? Aspetta a parlare, vediamo se ha cambiato molto. È l'apparato quanto sei? No, il Mickey Gain dell'apparato al massimo. Prova a alzare ancora il più il Mickey Gain del coso, del microfono. Ma c'hai detto non parlare, schiaccia solo portante senza parlare. Prova a parlare adesso. No, da parte mia lo devi tenere al massimo, così c'è l'abilitazione giusta. Va benissimo. Non è cambiato quasi niente, diciamo, impercettibile. Dai. La radio non è cambiata lo stesso, va bene. La radio è forte, chiara, 9 più 5 è quasi il segnale, radio super 5. Quanto hai pagato? Sì, è sempre bene farle quel lavoro. A me me l'ha dato il kit per farlo, quello di Itiri, Giovanni, con delle cose, mi faccio lo sotto mano, un condensatore da 10 kg picofarad e due condensatori da 10 kg picofarad e due bobine induttanti VK200 per il rientro di radiofrequenza. Eia. Ok, vai Riccardo. Eia, vado io, non capite cosa stavate parlando, 17 euro, scusa se posso. Vai, aspetta, c'è forse qualcuno che vuole entrare avanti, vabbè, non vuole entrare. Ma poi c'era anche quella candela di Nuova Elettronica, me l'ha fatto vedere Giulio, io l'avevo intravisto in un post che avevo pubblicato e poi mi ha dato tutto il progetto utilizzando la candela di auto addirittura, cosa, Giulio. E io adesso sto cercando, perché metto, non è facile trovarlo, Walter, è un sistema di commutazione da antenna, però per bande diverse, per dire bande HF e bande, come si chiama, radioamatoriali. Dice lo faceva la Magnum, un commutatore, diciamo, meccanico, però comandato elettricamente, che vuole messo vicino a due antenne, nel senso con un'unica calata riesce a commutare diverse antenne su frequenze diverse, perché per gli HF e per le VLU si trovano facilmente commutatori coassiali, però fare una commutazione da un'antenna HF a un'antenna, per dire, per le V è un po' difficile. Non ho trovato niente, adesso devo chiedere Pugio, guarda se senti qualcosa anche tu, visto che sei abbastanza inoltrato su internet di queste apparecchiature qua particolari, Antonio. Allora, nome tecnico è commutatore coassiale per bande V e per bande HF. V o U è la stessa cosa, tanto non ci dovrebbe essere problemi. Il problema è trovarlo che faccia anche le HF, che comunque è un'antenna HF con le antenne, diciamo, per i 2 metri, diciamo, cosa del genere. In parole povere è un commutatore di antenna che con un'unica calata, per dire, ti colleghi 2, 3, 4 antenne, dipende da quante possibilità c'ha, e tu per dire c'hai 2 antenne, c'è un'antenna, diciamo, per i 144 e un'antenna per la 27, la Mantova, e tu con un unico cavo riesci a utilizzare con un'unica calata e commuti, alimenti questo commutatore, gli dai una tensione, tac, e lui ti stacca quell'antenna lì e ti passa all'altra. E molti radioamatori già lo fanno, non stanno a comprarli, se li fanno a diverse uscite, però il problema è la perdita di intenzione, cioè quando li attacchi di inserimento, la perdita di inserimento, bisogna vedere quello lì, perché se ti fa perdere dei dB è un problemino, bisogna utilizzare delle cose, diciamo, di qualità. Usano quelle scatole strane, non so se le hai mai viste, per gli applicancelli e cose del genere, poi gli attaccano i cavi PL, gli mettono l'antenna all'interno, sigillano tutto, mettono quelle tenute a stagna e fanno tutto di lì. Ok, grazie Antonello, ti dico la verità, ti copio proprio male, certi passaggi ti copio bene, alcuni no, non capisco il perché. Eppure Riccardi, che segnale ti arriva, lui, per curiosità? Ti arriva a 7. E non riesci a tirarlo fuori con un segnale di 7? Senti, un segnale di 7 per la radio non mi piace. Ma l'RF Gain ce l'hai tutto aperto di quella radio? RF Gain? Sì, al massimo. Dove c'è scritto RF? Cioè AF nel commutatore, nel potenziamento, c'è scritto AF e poi RF. È tutto a manetta l'RF? Sì, l'RF sì, la F no. Vabbè, la F è il volume, ce l'avrei a 2, come lo tengo io, a che volume lo tiro? La F è a 4. Ah, quindi il volume è abbastanza alto, tu tieni, no, io sempre a 2, 1,5, dai. Anzi, adesso è meno di 2. No, l'ho alzato per ascoltare a Barracuda, per provare a tirarlo meglio fuori. Eia, ok, cosa volevo dire? Aspetta un attimino, se c'è qualcuno che vuole entrare, facciamo un'altra chiamata sul canale 10, avanti. Nispa. Ok, riprendi tu, Antonello, se hai già commutato. No, qua già arriva bene, grazie a Dio, non mi lamento, la posizione mia è più che buona, non per falsa modestia, però c'è un'ottima posizione di... Poi l'antenna funziona alla grande, con la manta va lì, molte volte ti prende anche un po' di mondezzina, perché io ho sempre il QRM minimo a 5, ma minimo. Ho capito, no, anche questa va bene, non so se è il problema l'antenna o sono io più coperto. Che a me? Ti dico, un po' ti copio, però c'è un po' di spazzatura, però già ti copio, ti ho sentito. Aspetta, non ti ho capito, se puoi ripetere? Roberto, ci servi tu che non sto capendo, c'è un bel spazzatura, se fosse più chiaro, forse sono io, non lo so. Antonella, aspetta che vado a prendere il telefono, che me lo devo mettere in carica, che è qui in garage, che non ha caricato. Sono rientrato, come male? No, sei a bomba qua, sei quasi 9 più 10. Che ha mandato anche la radio, sei una bomba, prova a parlare adesso. No, anzi, pure troppo alta la radio, secondo, se ti alzi troppo alta la voce, distruggi, per dire, sei anche troppo forte rispetto a prima, va benissimo. Se tieni un tono normale va benissimo, se alzi un po' la voce dovresti abbassare il Mickey Game. Di sfuggita l'ho sentito qualche volta, forse è impegnato, è passato l'altro giorno in officina, non lo so, già glielo chiedo quando viene, dai. Ok, siccome la mattina lui sta lavorando, poi magari c'ha poco tempo, non lo so, sta facendo altre cose, perché doveva sistemarsi dalle antenne, infatti gli ho prestato il Rosmer, che ho messo doveva sistemare dalle antenne. Sono tornato. E hai dato ritardi, avanti ritardi. E adesso, sono andato un attimo a prendermi il caricatore, che non ha caricato tutta la notte il telefono. Ma perché lo carichi così spesso? La notte non lo lasci attaccato il telefono? Sì, ma praticamente mia sorella mi ha rubato il caricatore, non so che fine mi abbia fatto fare il mio caricatore, e quindi non lo so che... non so dov'è. E infatti l'ho preso quello di babbo. Ah ok, tieni te lo sempre uno di nascosto da parte, così non sbagli. Che cos'è, che telefoni noi? Samsung A10. Se non ha l'ultimo attacco, se c'è quello micro USB già si trovano facilmente, dai, non c'è problema. Poi se ti capita, se no te ne busco uno io, dai. Sempre che non abbia l'ultimo tipo di attacco, l'ultima tipologia, quella nuova. Ma infatti servirebbero di quei telefoni che hanno l'attacco inverso da tutti, che così non se ne fa niente. Ehi, vediamo, dice che ascoltavi male a Antonello. Avanti Antonello per Riccardino. Riccardo. Sì, stavo ascoltando, non capivo quando stava finendo. No, adesso lo ascolto un po' meglio. Ma cosa vuol dire un po' meglio? A me mi sembra strano che tu non riesci a ascoltarlo, cavolo. Non è che sei molto sperduto rispetto a lui. Oh, ti mando un audio, come lo sento a Barracuda, per farti capire. No, ci credo che mi stai dicendo la verità, ci mancherebbe. Però è una cosa molto strana. Cioè, riesci ad ascoltare a muro, su per dire. E muro è un buco proprio nascosto verso di te. Quando ti arriva a te? Mica, quanto ti sta arrivando? Antonello, mi sta arrivando praticamente 7. Cioè, non è cambiato niente da prima, adesso ha attaccato qualcosa, a me ha guadagnato quasi 10 punti. Mamma mia, boh, non lo so. Mi aspetta, avanti Antonello, che ti faccio vedere come sta arrivando. No, vabbè, non ti preoccupare, Riccardo, però è una cosa, sto cercando di capire le propagazioni dei segnali, perché ci sono delle zone varie, boh, per dire, io si pensavo di dovesse arrivare fortissimo, ma non dico 9, ma intorno a 9, invece strano. Boh, non lo so, ma è a casa, non è in barra mobile. No, è a casa, stavo utilizzando, è così, come la c'hai Antone? È una bomba la radio tua adesso, cioè poche volte ti ho sentito così, vabbè abbiamo sollevato il coso, il macchigame, ma tu ci avevi anche un altro baracchino mi sembra, Antone. Ma c'hai solo il MB4 il microfono, non è altri. No, la modulazione è bellissima. La modifica è stata fatta di lì a quel microfono, con la mirina interna, l'ha fatta o era tutto originale? Oh, Roberto. Un attimo, ti ascolto la bomboletta, bellissima radio, complimenti. Dimmi Riccardo. No, stavo dicendo che mi stava dando il problema la luce qua in garage, adesso l'ho spenta e lo sento meglio, prima c'era più QRM. Ehi, ammettete quello stabilizzatore, quel gruppo di continuità come ha detto Babbo, mettilo, perché voi siete in una zona dove c'è un sacco di linea, è molto lunga, per cui c'è molto perdita. Quando attaccano, per dire altre cose, pozzi, autoclavi e cosa, avete degli sbalzi enormi di corrente. Voi, e ti crea problemi sull'apparati. Fai come ho detto io, a tuo Babbo fagli mettere quel gruppo di continuità, quello di computer. Se poi ci sono le batterie anche meglio, per dire se manca la corrente del tutto, ti dà almeno una mezz'oretta di autonomia di tempo, perché per fare per spegnere il tutto. Antonio, cosa c'hai? L'FRG 9600. L'FRG 9600 c'hai. Mi ha detto c'hai il ricevitore FRG 9600 della IAESU, così confermo. Mi ricordi, hai sentito, se vuoi qualche informazione c'era Antonello. No, se l'ha comprato Riccardo, lo stanno aspettando quel ricevitore. Sei soddisfatto, funziona bene. Cosa volevo dire? Quante memorie c'ha di impostazione? No, così, vabbè, la dico per saperlo. Io l'ho visto sempre in fotografia, ne ho sentito parlare abbastanza bene, non posso parlarne che mai. L'unica cosa è, l'hanno fatto sino a 900, bisogna mettergli l'applicazione per aumentarlo, per farlo salire più su. Una domanda, l'hai pagato 80 euro. Ma com'è così poco? È fuori mercato il prezzo, con gli apparecchi li paghi non meno di 250 euro. Cavolo, un affare 80 euro. Noi l'abbiamo pagato molto di più. Le broadcasting, le FM ti hanno problemi, se li ascolti per dire bandi aeronautiche, cosa del genere. No, c'è un buon ricevitore, ma 80 euro ti hanno fatto un regalo a te. Controlla su internet quanto li vendono, non meno di 250 euro, ma 250 sei un po' graffiato, un po' vecchiotto, è un regalo con l'apparecchio. Cioè con 80 euro non ti compri neanche lo scanner più scaccino, la R1000 non te lo compri perché te lo vendono 100 euro. Se presente la R3000, il mio nemmeno ve lo trovi, lo paghi 200 euro, ma proprio se uno se ne vuole disfare. Se poi vuoi salire su un ICR7000, se lo vuoi buono ci vogliono dai 600-700 euro. Sì, ma 80 euro non esiste, cioè se io avessi visto una cosa del genere 80 euro non l'avrei comprato, perché ho detto questo è una fregatura, ma che non ti danno un apparecchio di quelli per cannabilizzarli, per smontarli, 80 euro è proprio un regalo. Cioè tu un baracchino, adesso ti stanno vendendo quegli alla 48 modificati, 400, 500, anche di più li ho visti, cioè prezzi allucinanti, che per dire un 440 lo trovi buono a 350 euro, diciamo 400 euro con l'MC60, però stiamo parlando di un apparato sofisticato, perché c'è gente che spende 400 euro per un baracchino, assolutamente, anche io la vedo come te, a parte i veicolari a me non piacciono, proprio manco a regalo, ne ho tanti ma non mi interessa, tengo solo con la 48 di quelli veicolari e bus, il resto vado solo con stazioni base, vai Riccardo. Ehi, vado io, comunque strano 80 euro come hai detto, io l'ho pagato come hai detto Roberto 250 e penso sia buono, mi sono letto tutte le recensioni e fa da 60 a 905, bisogna vederlo adesso, però mi dà questo anche la staffa per montarlo, la scatola, il manuale, tutte queste cose, anche a te. Che vai tranquillo, aspetta, c'è qualcuno che sta chiamando sul fondo, avanti chi chiama? Non capisco quello che sta dicendo. Ok, non so, Riccardo, il prezzo suo, tu l'hai pagato, quell'apparecchio vale dai 250 ai 300, se è proprio perfetto, perfetto con i manuali, scatola originale e tutto, anche 300 euro. Anche se io, sinceramente, aggiungere qualcosa e mi prendere qualcosa di meglio, però è un buonissimo ricevitore. Scusa, te lo chiedo, ma perché, secondo te, che cosa c'è di meglio di quello per quel prezzo? Ma io dico, quell'offerta che ti ho fatto vedere io, l'ICR7100 li fa 10 al vento, perché stiamo parlando di un apparato molto più recente, scende più in basso e sale molto più in alto, scende da, mi sembra fa da 25 sino ai 2000, sino ai 2 GHz. Tu per dire, se ti vuoi ascoltare con quello le bande qua, CB non lo puoi ascoltare perché parte mi pare da 50 o 60 MHz. Ho capito, no, non me l'avevi mandato, non riuscivo a mandarlo, ho capito che lo cerco, com'è che si chiama ICOMIC? ICR 7100, però è un apparato che costa un po' di soldini, quello che c'era da Dry Cagliari lo stava dando 300 euro ed è ancora in sospeso, bisognerebbe telefonare se c'è ancora, quello è un prezzo di regalo, te lo garantisco, perché il 7000 io l'ho pagato, vabbè, ho fatto una permuta, 700 euro costava l'ICR 7000. Ho capito, adesso me lo sto guardando, sta caricando. Però il 7100 è l'evoluzione del 7000, anche se il 7000 per certi versi è meglio, è molto più sensibile, più selettivo come prestazioni, però il 7100 è un apparato un po' più recente, ha più memorie eccetera, ti permette di tenere più memorie, perché il 7000 c'ha l'unico limite che c'ha solo 100 memorie e io le ho quasi tutte riempite. Ho capito, sì, ma lo sto guardando e sì, si vede che è un po' più moderno. Ma dov'è? Sul mercatino di Facebook o su Subito? No, quello del mercato, marketplace mi sembra che si chiami. Sì, su Facebook, ho capito. In italiano c'è, ma no, io ho ricevuto ne ho tanti. Allora c'ho la R1000 che è nuovo, fiammante, quello lì l'avevo preso un affare, ancora con la custodia in pelle originale, con la scatola sua origine, proprio nuovo, fiammante, con l'etichetta sopra, quello lì l'ho usato per un po', quello faceva da 25 a 1500, o 1300 mi sembra. Che si possono mettere le antenne, quelle che vuoi, si possono staccare. Poi mi sono comprato la R3000, che avevo fatto una permita con Media Globe, e gli avevo dato un bibanda nuovo, non so se era un cable o Alinco, forse era Alinco, un bibanda nuovo fiammante, quello me l'avevano regalato, e ho preso la R3000, poi mi ho preso l'ICR7000, ne ho avuto, questo è il secondo che ho della ICR7000, non so se lo conosci, della ICOM, che è un grandissimo ricevitore, a parte che grande, grosso, e poi c'è un altro ricevitore professionale però che non ha niente a che vedere con questi giocattolini, è uno tedesco, è un ricevitore da laboratorio che fa da 0 a 30 e da 88 a 108, ma c'ha una ricezione, all'ICR 7000 li fa 10 a 0, ma proprio non c'è studio, quello non prende niente, tu senti QRM e quello ti tira fuori la stazione. Vabbè. Dimmi Enrico. Ma l'avranno venduto, non c'è più. Venduto? Non c'è più. C'era scritto in sospeso quando l'ho visto io. L'avranno concluso. Guarda, dopo gli mando un messaggio, solo per curiosità, dico se è ancora disponibile, poi eventualmente faccio dare il numero se vi interessa, quello è un prezzaccio, è un grande apparato, per quel prezzo non lo trovi. Basta, e poi c'ho ricevitori dedicati per tutte le altre bande, però come apparati sono quelli, Antonio. No, c'è problema, diciamo, tutto dipende da cosa uno ha voglia di fare, no, io sono un grande ascoltatore, a me piace tanto ascoltare, per cui c'ho tutte le radio dedicate per le frequenze più importanti, dai, le V, le U, le HF, adesso le HF mi hanno dato Mi Giovanni è proprio una bestia di ricevitore, se lo vedi è 2x4,40 come dimensioni, a valvole della Trio, cercatelo, modello 9R59DS, è una bestia, se lo vedi in ricezione è una cosa da paura, devi farlo scaldare bene, perché cosa. Poi c'ho cosa mi ha toccato l'FR Digital, 101 Digital della Sommercamp, Sommercamp, poi c'ho altri apparati per dedicati ad altre bande di frequenza radioamatoriali. Che va? Rubison. E tu come? Da dove stai uscendo? Dalla tua piazza? Io. Ho detto, non è lui il segnale, c'è compagnia mia di Antonello da Ossi e Riccardino. Ti rilancio Riccardi. Ciao Luca. Ciao Riccardi. Non so se mi ascolta Antonello, ma non credo. Antonello, avanti. Tu scrivi Trio e poi scrivi modello, model, 9R, stai scrivendo? Non scrivere ricevitori, scrivi solo Trio, poi scrivi model 9R, trattino 5959DS, Domodossola Sassari, 59 Domodossola Sassari, è una bestia mia, enorme, se lo vedi è cacchio, è una cosa enorme. Sempre no, Ghisetti. Stavamo aspettando a te, ho detto, strano che non vi sia mai, vabbè ma... Anche con vergogna dico che ministro Gubisato Abba. Ciao a tutti, un saluto a tutti, dai, sto facendo qualcosa però. Vabbè, tu oggi, da noi sono quasi l'una, tu gliene hai 6 ore, quindi 13 meno 6, diciamo saranno più o meno le 6 del mattino, sono il tuo coso, fuso orario. Sì, sì, sì, tipico Est Coast, dai. Ci sentiamo, vabbè, dai, fate gli scherzi. Buongiorno a tutti. Dai, sto facendo roba qui e sentiamo, lascio acceso e ascolto ogni tanto. Dai, ciao a tutti, ciao. Sì, ciao Marco. Vai, Antonio, ci siamo... Sì, no, c'ha tre scale graduate, c'ha l'accordatore dell'antenna incorporato, efficientissimo, e poi c'ha l'amplificatore dell'antenna. E ti posso dire, guarda, ti tira fuori dei segnali, sono rimasto. Io non lo dovevo acquistare perché me l'ha portato, ho detto, guarda, se lo vuole qualcuno, ho detto, no, tanto, no, cioè, diciamo, non può. Se non batto, poi me lo sono portato a casa, ho detto aspetta che lo provo a accendere, mi sono spaventato, no, ho detto ferma il tutto, questo me lo prendo io, lo voleva anche Claudio, ho detto no Claudio, lo prendo io, me lo tengo io, perché questo è una bestia, ti sto dicendo c'è una ricezione, la paura, poi la valvola quando scalda, tu devi vedere come tira fuori se, ma mi fa 4-0, 10-0 al 4-40 come ricezione, considerando che questo è un apparecchio molto molto vecchio, sarà degli anni 70, ma tutto in alluminio, poi i manopoloni, non c'è roba in plastica, è tutta roba, e lei è un alluminio presso quello di sintonia, poi c'è un sacco, c'è anche le bande laterali, CV doppia, c'ha filtri, è bello, dai. No perché ce l'ho io, lo tengo custodito. Ok, ti rilascio il mic così se deve andare via, poi ti salutiamo. Avanti Antonio. Sì, no, l'ho preso al volo, ma poi basta avere gli strumenti, allora lo Smither è di altezza grande quanto come si chiama? La 48, tu tagli a metà la 48 e quello lì è lo Smither. Sì, riprendo io. Ciao Antonio, ben sentito, è sempre un piacere, dai, buona carica e se coincide ci sentiamo stasera. Vai Riccardino e poi Luca a salutare ad Antonello. Ok, ciao Antonello, buona carica, buon tutto e a più tardi. Saluto anche a Marco che non l'ho salutato prima. Ciao Marco e vado per Luca. A parte, mi sa Luca si è allontanato. Marco, cosa stai facendo di me? Adesso quando c'ho tempo devo fare delle piccole modifichette qua, Riccardi, così, trasformazioni, dai. Ho capito. Oh, stavo guardando, non ce n'è neanche uno. Neanche uno. Non ho trovato. Cercalo su Facebook, provo a cercarlo anche su Subito, se l'ha messo anche lì. Ma questo dice R7000, 7100? Sì. Aspetta, scusa un secondino, voglio vedere se c'è ancora il posto. Ehi, fai, sono qui. Se c'è altro, strano che Dio Natale oggi non si è fatto sentire. Che è Eugenio, tu sei Eugenio. Qua c'è ancora comunque, in sospeso. Ma riesci a mandarmelo? Quale c'è un altro? Questo è il Trentino Alto Agile, a Trento, non è questo, non è quello che avevo visto io. Boh, ma è lo stesso, il prezzo è sempre lo stesso? Sì, 2,90, aspetta, rimangio il messaggio e gli scrivo se è ancora disponibile. E gli affari, perché anche io stavo pensando come vuoi prendere una cosa che superasse i 905 come quello. Lo sai cos'è il problema? Adesso, per dire, per certi versi non te ne fai niente dopo quelle frequenze lì, però ci sono radioamatori che trasmettono nelle onde centimetriche, per dire su 1200, cose del genere, anche se ormai è tutto digitale, però se ti vuoi togliere uno sfizio c'è sempre un ricevitore aggiornato. Purtroppo, nel senso è sempre bello quello lì, però è un po' limitativo, perché quando fai a 50 MHz parti su tipo di tutte le bande basse, le bande HF, per dire, se vuoi ascoltare gli 11 metri non li puoi ascoltare, dovresti attaccare un altro ricevitore. Se vuoi scendere ancora più in basso non puoi farlo, i 28 MHz eccetera eccetera. Ok, dai, però va sempre bene un bel ricevitore, un domani che ti stufi te lo potresti anche rivendere. Adesso ho mandato un messaggio a questo qua, vediamo se mi risponde. No, ma mi interessa così, perché intanto con questo posso fare da 0 a 30, poi con l'altro faccio a 60-900 e poi con questo posso ascoltare anche dopo i 900. Vabbè Riccardo, adesso devo andare che è pronto a mangiare, ci sentiamo magari più tardi, ciao, ti auguro un buon pranzo se devi farlo, se no una buona serata. Dai, ciao ciao, saluto anche gli eventuali amici qua sul canale 10 nascondo. Ciao ciao a tutti, buon pranzo a tutti, dai. Ciao Marco, anch'io vado allora e vado che mi hanno chiamato anche per la piscina, ci sentiamo più tardi, torno subito, se c'è qualcun altro faccio una chiamata. Ciao Marco, ciao Roberto, Antonello l'ho già salutato, Luca, e ci sentiamo più tardi. Ciao ciao ciao.